a sposar. Io vorrei sembrar normale, a passare le ore a giocare o a mangiare. Voglio un bar, vieni qua, c'è un gioco nuovo da provare. Voglio un bar, vieni là, c'è un livello da superare. E Alan non sa che cosa fare, se sei fuori dal lago lo può ancora tirare. E non mi stare a giudicare, per uccidere una donna per rubare. Impugni un bar, vieni qua, c'è un obiettivo da sbloccare. Impugni un bar, vieni là, tutti i miei euro posso ancora sognare. Sognare e mi ritrovo qua, in una nave con un mutante da ammazzare. Mi spiace per lui, ma si sa, ecco per smembrar. E non sono un perverso, se con un membro dell'equipaggio faccio sesso. E chi non sa dove parare, se della principessa si può ancora fidare. Qua c'è una galassia da esplorare. Impugni un bar, vieni là, tutti i miei euro posso ancora sognare. Sognare e mi ritrovo qua, in un ring con combattente da picchiare. Mi spiace per lui, ma si sa, è crudele vera. Impugni un bar, vieni qua, c'è una galassia da esplorare. Impugni un bar, vieni là, tutti i miei euro posso ancora sognare. Sognare, impugni un bar, vieni qua, c'è una galassia da esplorare. Impugni un bar, vieni là, tutti i miei euro posso ancora sognare. Impugni un bar, vieni là.